se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. La zanzara. Tutto il resto è noia. Non capisci un cazzo. No, non ho detto gioia. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Datemi la nota del Quirinale, allora, su Unita. Datemi la nota su Unita, allora, del Quirinale. Voglio dire, mi fai fare una, parlare fare di una cosa, un no? Appello. Ma che appello? Mi fai Radio Radicale gli appelli? Un appello non è, di un minuto. C'hai una radio a disposizione. Ma non è Radio comunità, Londra. Alla comunità penitenziaria. Ma non me ne frega un cazzo. No, dai. Non me ne frega un cazzo. No, Marco! Ma perché? No! I tuoi non parli. A te non c'è il... Ma scusa, ma no, io dico che, ragazzi, mandate un po' di musica, dai. Non ci crederete, ma Marco Pannella cosa fa? Dice che voleva interrompere lui l'uso violento del mezzo, come i partigiani in Danimarca e in Norvegia. Ma altro che ambulanza, ma qui devono chiamare direttamente la Neuro. Direttamente la Neuro. Siamo al top assoluto, siamo al top assoluto. Marco se n'è andato e non ritorna più. Intendevo in questo modo interrompere quello che mi appariva, a mio avviso, un uso violento del mezzo, strutturalmente violento del mezzo, e così come diciamo in Norvegia anche partigiani, anche non violenti, magari quando non avevano il tempo di... Ma voi vi rendete conto o no? I partigiani in Danimarca e in Norvegia, ma siamo come nazisti, cioè noi nazisti. E lui combatteva una guerra come i partigiani fecero in Europa. Ma dai, ragione, ma di che stiamo parlando? Ha ma soprattutto, Pannella, al di là dei di quello che è successo, lui che ha sfasciato mezzo studio, mi ha colpito alla mano, e cioè, al di là di questo, ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Non capisci un cazzo. Beh, io non capirò niente, però non è che evoco i partigiani in Norvegia e in Danimarca. Cioè, E faccio lo studio. Dai, su. No, senti questa cosa poi. Siccome non mi ha sfasciato il dito, ma me l'ha semplicemente colpito, una piccola, piccolissima contusione, il dito se l'è fasciato da solo. Ma che vuol dire? Ma Marco! Assieme al dito... Mi dicono che è stato mostrato come prova della violenza fisica da pronto soccorso che aveva subito Cruciani, mi pare. Cruciani è un dito fasciato. E che dai, poi sono morsi, che hai fatto? No, appunto, dico, non mi pare che l'ho morso, no, ma voglio dire, anche questo si commenta da solo. Perché mostrare, poi mi dicono non è che è fasciato, sì vabbè, probabilmente... Può averlo fatto in vediamo un po' 3 minuti da solo, non c'era bisogno di andare al pronto soccorso. Ma non ci sono andato, ma che ti frega? Hai scaraventato tutto per terra, distrutto mezzo studio. Ma che me ne importa se sono andato al pronto soccorso? No, che te ne frega? Perché siccome non mi ha sfasciato il dito, allora non è violenza, secondo lui, anzi, è una violenza, anzi, un atto di liberazione. C'è il diritto a sfasciare quando gli sfascisti Cruciani e Parenzo hanno sfasciato la democrazia, cioè il diritto a sfasciare. Vabbè, chiudiamo adesso con Pannella però, chiudiamo. No, ma bisogna reinvitarlo ancora. No, aspetta, per distruggere gli oggetti con prudenza. Poi a parte parla di stupidità professionale, alcuni mi dicono finalmente gli hai fatta. Distruggere gli oggetti con prudenza, senti. E di conseguenza il problema del rapporto della violenza, tra virgolette, ma direi della distruzione o del rendere inservibile un meccanismo, questo rientra, sicuramente va fatto con prudenza, ma anche perché... Vabbè, insomma, il collegamento con il reparto neuropsichiatrico dell'ospedale di Roma, sito in via di Torre Argentina, si conclude qui. 800 24 00 24, questa è La Zanzara. Dove andiamo? Andiamo a sentire, caro Parenzo, nel frattempo la linea come al solito è caduta, quello che ha detto il signor Mineo, senatore del Partito Democratico, su Napolitano. Il fatto che non abbia dato l'incarico a Bersani, pieno, l'incarico pieno, dunque non l'abbia mandato alle Camere, è secondo lui una cosa gravissima. Mi adorano perché... Secondo me la responsabilità di Napolitano, lo dico chiaramente, è gravissima, perché avrebbe dovuto dare l'incarico pieno a Berlusconi, se poi Bersani non ce l'avesse fatta, si sarebbe fatto un passo avanti. Si sbronzano di... Alemanno che sbrocca, il signor Alemanno che sbrocca alla 7, spettacolare, dalla trasmissione della nostra amica Mirta Merlino. Gli fanno vedere dei servizi, non gli piacciono questi servizi, e sbrocca. Allora, ma dovete vergognarvi a fare queste cose. Che è successo? No, avete detto un sacco di balle. E cioè? Di balle vergognose. Il debito certificato dalla Corte dei Conti era di 12 miliardi e 300 milioni alla fine del mandato di Veltroni. Quindi non 9 miliardi, no, ma 12. Non mi interrompe adesso, fammi parlare perché avete esagerato. Voglio capire perché. 12 miliardi e 300 milioni di debito alla fine del mandato Veltroni, che abbiamo affrontato, e siete ridotto di 3 miliardi grazie alle risorse. Ancora lo sbrocco, abbiamo già un ospite pronto. Parenzo, dove diavolo sei? Ci sei di nuovo? Sono a Firenze. Sì, a Firenze, ma non in Cariola, aspetta. Quindi cercate di essere seri quando fate questi servizi. Ma guarda che gliela faccio ripetere. È ridicolo, capito? Ridicolo. Lei sta ripetendo. Ridicolo, scusi, capito? Mi scusi. C'è un limite a tutto. Mi scusi. Possiamo... Con le vene di fuori, ridicolo, ridicolo, ridicolo. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Paolo Becchi, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, ho sentito un po' del vostro programma, ma erano tutti casi di trattamento sanitario obbligatorio oppure avete cambiato programma televisivo, siamo già la neuro per tutti, dove siamo finiti? Caro professor Becchi, caro Becchi. Il nostro Giovanni Sartori. Lascialo perdere, adesso gli hanno dato tutti ragioni, come fosse una persona normale, fai bene. Ma in che senso, scusa, perché non è normale il professor Becchi, no, scusa. Lo tratti, io gli voglio un bene dell'anima a Becchi, perché è l'unica apparizione televisiva l'ha fatta da noi praticamente in onda. Ma non è vero, è andato dappertutto, ma che dici? Mai andato da nessuna parte. Ma che dici? Cruciani, quindi gli amici di Cruciani sono miei amici, dopodiché trattarlo come una persona normale mi sembra eccessivo, ma andiamo avanti con l'intervista. Ma che c'entra? È un po' su generis, un personaggio... Io toglierei un po'. Originale, ma poi anche lui beve la pipì come quell'altro signore che hai presentato, quel suo amico che viene spesso ospite in questo. Non credo abbia mai bevuto urina, signor professor Becchi. Vabbè, No. Di solito bevo del vino buono. Lo sai, no? Ogni tanto gli hanno dato anche dell'ubriacone, no? In questa polemica di questi giorni, professor Becchi, o sbaglio? Sì, è vero, ma sai, in quella trasmissione eravamo in un ristorante, cosa potevo fare? Io ho chiesto almeno che mi offrissero un bicchiere di vino. Comunque, quel giorno che sembravo così tanto ubriaco e tutti ridevano, tu non ridevi, tu Cruciani non ridevi, però tutti quelli che ridevano, poi alla fine la cosa incredibile è che il Presidente della Repubblica ha dato ragione all'ubriaco qualche giorno dopo. Gliel'hai messa in quel posto a tutti, diciamo la verità, a questi soloni, diciamola tutta, professore, su. Allora, Becchi, come sapete, insegna filosofia del diritto all'Università di Genova, è considerato una delle menti del 5 Stelle, anche se non è così, in realtà è solo un simpatizzante, che però ha un rapporto con Casaleggio, ogni tanto sente Casaleggio, giusto? Ma no, io l'ho sentito solo quando ho pubblicato il libro. Cioè, basta, poi non l'hai più sentito? No, non l'ho più sentito, assolutamente. Cioè, io il mio contatto è con la base, col popolo del 5 Stelle, cioè con questi ragazzi genovesi e qualche altro gruppo. Ma ti piacerebbe fare il Presidente della Repubblica, Paolo? Ah, ragazzi, ma non è possibile, capisci? Io sono considerato un matto dalle gare. No, non è. Vabbè, metti che i 5 Stelle propongano te come Presidente della Repubblica. Ma perché hanno le loro, diciamo così, nascerà dalla base. Io non ne faccio neanche parte. Vabbè, ma tu sfigureresti nei confronti, cioè, per esempio, rispetto a Napolitano, sfigureresti? Ma figurati. No, scusate, ma ragazzi, Napolitano io l'ho criticato tanto per un anno intero, anche se quest'ultima parte di Napolitano mi è piaciuta, no? Devo dire, queste ultime cose, ma insomma... Cioè, faresti allora, meglio faresti o peggio? Meglio. Faresti meglio di Napolitano? No, io mi limiterei a fare quello che prevede la Costituzione, il garante della Costituzione. Vabbè, per cui saresti in grado di farlo, cioè, non è che non saresti in grado. Ma io credo che, insomma, perché no? Io non credo che ci voglia una grande scienza. Cioè, il problema è questo, abbiamo ridotto la politica a qualcosa di professionale e strettamente professionale. Vedi, la novità del 5 Stelle è quello di dire, ma potrebbe diventare anche un normale cittadino presidente, oppure potrebbe diventare anche un normale cittadino ministro di sì, però sto candidato, il tuo candidato ideale chi è per la presidenza della Repubblica? Al di là del fatto che tu saresti perfettamente in grado, ma chi è il tuo candidato ideale? Non mi dire di nuovo Gino Strada, che io appena sento quel nome, Gino Strada, guarda, non ne ho io candidati ideali, cioè guarda, è una situazione molto confusa, perché devi tenere presente, prima ci sono le tre tornate elettorali, il presidente della Repubblica, vedi qual è il problema, poi alla fine è il capo dell'intero Stato, quindi se nasce soltanto da una parte, da una maggioranza, e non coinvolge, diciamo, più, cioè per te deve essere votato da una larga parte del Parlamento, ma dovrebbe essere così, perché se no, cioè, scusami, Prodi come lo vedi? Questa ha ragione. Come il fumo negli occhi. Ma ce l'hai ancora la statuetta? Ce l'hai ancora la statuetta? Quella con i riti voodoo, ce l'hai ancora? Ce lo chiede l'Europa, ma scusami, ma te ne rendi conto? Ma datemi tutti come Presidente della Repubblica, ma non quel nome lì, quel nome lì, io non lo posso... Vabbè, lasciamo mica l'ho fatto io, non lo puoi vedere, ma c'è ancora la statuetta dove tiri le freccette tipo rito voodoo, zac. Ce l'hai o no? No, quella cosa lì, anzi, sono andato un po' sopra le righe in quella trasmissione, mi scuso con Mario Monti, perché effettivamente sono stato un po' forte, ma sai, quando bevi un Sauvignon di più, poi ti scappa, ecco. Vabbè, adesso non attribuire alla tua stato di ubriachezza le cose che hai detto su Prodi. Comunque, le freccette gliele tiravi a Prodi, su, le freccette sulla statuina, dai, diciamo la verità. No, freccette o non freccette, secondo me non avrebbe, cioè sarebbe un disastro, sarebbe un dramma per l'Italia. Ma secondo me sì, sarebbe un disastro per tutti. Ma non è vero allora che Grillo in qualche modo, nei giorni scorsi si parlava di questa simpatia di Grillo per Prodi, ma quando mai? Ma guarda, io non lo so, può darsi, perché io Grillo non l'ho mai sentito invitare, l'ho visto una volta allo tsunami qui di Genova, quindi io le persone che frequenta non lo so. Ma che ti ha detto? Che ti ha detto quando vi siete incontrati la prima volta con Grillo, l'unica volta, allo tsunami a Genova? Che parole ti ha detto? Professore, continua così, sei no. Guarda, ma ha detto questo, ben mi ricordo questa cosa. Io ero del pubblico così. Sì. Poi mi sono venuto, cioè non sono salito nel palco, mi sono venuti a prendere. E se volevo salire su, dico, ma no, io sto qua con i cittadini. E mi hanno detto, no, ma vieni un attimo su. Allora sono andato su nel palco, lui stava parlando, a un certo punto ha finito di parlare, mi si è avvicinato, mi ha stretto la mano e mi ha detto, ah, Becchi, ci sei anche tu oggi, quasi un po' dialetto genovese, no? È così, e grazie per il lavoro che fai, cioè due parole così. È stato vabbè, ma che... Ma è stato praticamente un incontro tra sconosciuti, cioè tra persone che manco sai. Esatto, proprio così, un incontro tra sconosciuti. Io non l'avevo mai visto. Ma com'è che ha fatto? Scusa, Parenzo. Ma c'è pure dottor Becchi, porca puttana, ve lo abbiamo detto. C'è pure Becchi, il professore di filosofia del diritto, porca puttana, qualcuno tutti, avete capito? Il professor Becchi, al Quirinale, abolirebbe immediatamente quei corazzieri che non si farà un cazzo. Via i corazzieri, Becchi, Quirinale, il portavoce è quello che beve l'urina. Traffico, torniamo subito, traffico. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Siamo qui 18:50 800 24 00 24. Secondo lei, professor Becchi, il 5 Stelle potrebbe votare quale tipo di presidente, al di là di quello che proporranno? Guarda, Giuseppe, volevo richiamare, se non ti voglio sviare nella no, domanda, dimmi. Però volevo dirti questo, presidente, ne parleremo nei prossimi giorni. Io vi devo dire francamente una cosa su questa cosa delle commissioni, perché la si può vedere come la si vuol vedere, insomma, sì, sì. Ci vogliono, non ci voglia, eccetera, però quella è un'ottima io voglio dire una cosa a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, sì. E, beh, diciamo, ma dico, ce ne rendiamo conto che abbiamo da quasi un mese un Parlamento sì. che ci costa quel che ci costa, perché insomma sono quasi 1000 parlamentari. Che non lavora, sì. Che non fa niente e prenderà lo stipendio. Ma voglio dire, tutti parlano adesso di costi della politica e poi per un mese praticamente si sono beccati lo stipendio senza fare un... Senza fare un cazzo, lo dico io, se non lo vuoi dire tu. No, ma professore, ma guarda, io sono d'accordo con te su questo, cioè il Parlamento, questa cosa delle commissioni, oggi pare che Grasso la stia risolvendo, cioè è chiarissima, cioè il Parlamento è sovrano, domani se vogliono i partiti, senza prenderci in giro, possono presentare un disegno di legge in commissione o in aula direttamente di una riga in cui dicono viene abolito il finanziamento pubblico, oppure viene abolita la legge elettorale e messa quell'altra. Il fatto che non lo facciano è perché non sanno cosa fare, questo è il punto. Sì, è vero, ma vedi, questa situazione sarà destinata a durare a lungo, perché? E perché ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, e poi ci sarà bisogno di un nuovo incarico, oppure addirittura di tirare fuori dal congelatore. Questa sarebbe la cosa massima. Vabbè, ma chi, qual è il Presidente, del 5 Stelle che potrebbe votare? Noi abbiamo in Italia gli embrioni congelati e poi abbiamo anche Bersani congelato, perché non si sa mai, può darsi che prima o poi, prima che speriamo che non sia come i Findus quando scadono, magari tra una decina di giorni ci ritroviamo di nuovo Bersani scongelato. Io non lo so cosa farà il 5 Stelle per il Presidente della Repubblica. Io spero che ci sia un metodo Grasso rovesciato. Cioè? Un metodo Grasso rovesciato. Cioè, con il metodo Grasso hanno cercato di fregare i 5 Stelle e noi rovesciamo questa cosa. Io mi auguro che insomma dal cartello esca un nome tale, che non è sicuramente il professor Vecchi, esca un nome tale da poter trovare consenso anche nelle altre forze politiche. Finora ci hanno costretto un po' a votare i loro e non abbiamo ottenuto niente. E adesso dobbiamo essere bravi, devono essere bravi quelli che votano il presidente attraverso internet a proporre un nome che li frega, tu dici, no? Sì, io dico, questo è un nome su cui anche altri... Ma chi potrebbe essere? Partiti. Vabbè, non bruciamo nessuno. Va. Chi potrebbe... Non lo so, e non voglio bruciare nessuno, non lo so, ma l'idea dovrebbe essere questa. Il capo dello Stato è il capo che riguarda tutti gli italiani, quindi riguarda... Ma Bersani si deve ritirare dalla politica, secondo te? Ma io direi che Bersani è già un uomo finito, ragazzi, non prendiamolo... Mentre Berlusconi c'ha 50.000 vite e non morirà mai perché è eterno, Berlusconi è un essere umano, e direi che ne ha sopportato già troppo, ecco, qui la differenza è questa. Cioè Bersani è un essere umano, dice, Bersani è un essere umano, sì. Bersani è un essere umano. Cioè, si deve ritirare, dai, su, si deve ritirare, dopo tanti anni di politica, dice. La resa dei conti per lui è vicina, ecco, da una parte c'è il PDL che senza Berlusconi è inesistente, dall'altra parte c'hai un PD che magari potrebbe... Ecco, ma l'obiettivo del 5 Stelle è quello di conquistare, di andare, oggi è uscita questa cosa che non vogliono votare a giugno, eccetera, alle prossime elezioni di prendere la maggioranza e di fare il monocolore 5 Stelle, diciamola tutta. Ma certo, no, ma chiamiamola monocolore. No, l'idea sarebbe di raggiungere, con la legge elettorale che ci sarà, speriamo non questa, una maggioranza tale da poter avere il Movimento 5 Stelle in carico del governo. Vabbè, il monocolore, tu ti auspichi il monocolore 5 Stelle? Sì, certamente, perché io penso che, l'ho già detto da qualche parte, che questo movimento sia un po' l'embrione della nuova Italia. Cioè io credo... Vabbè, ho capito, però monocolore, uno potrebbe dire la dittatura 5 Stelle. Ci vorrebbe una dittatura dei 5 Stelle in Parlamento in Italia per un po' di tempo? No? No, questo no, però io penso, ma non è una dittatura, perché tu lasci lo spazio nel Parlamento all'attività dell'opposizione, ma finora noi abbiamo avuto governi di centrosinistra e di centrodestra per 20 anni. Cosa hanno combinato? Un... cazzo. Ecco. No, però allora, dillo te ogni tanto, non è che lo devo dire allora, solo io. Senti, ma questo Currò, questo deputato Currò che dice che vuole bisogna fare un accordo col Partito Democratico, tu lo cacceresti subito? Ma vedi, non è problema di cacciare o non cacciare. Io penso, ho detto una parola molto forte e mi hanno detto "Ma professore, non è possibile, siamo ormai in un'epoca e non si parla". Cosa hai detto? È un traditore. È un traditore. Perché? Ma perché se tu hai appoggiato una determinata linea di tendenza, devi essere coerente con quella linea politica. Nel momento in cui non la segui più, la tradisci. Io non so che altro termine ad operare. No, sai, hai fatto bene, hai fatto bene. Politica al corretto. Hai fatto bene, dunque andrebbe cacciato. Pane e vino al vino. Scusa, dunque andrebbe cacciato. Andrebbe cacciato, tanto a te non ti si sente, Parenzo. Vai a quel dia, quel paese, no, stai zitto, stai zitto e non rompere i coglioni. Allora, io dico una cosa. Non cacciato, si autoelimina da solo, perché si autoelimina nel senso che esce dal gruppo dei 5 Stelle autonomamente. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, scusami, c'ha un ce ne dovrebbe avere due di punti identificanti, sì, ma ce n'ha uno, quello sì, della partitocrazia, dell'essere sì, contrario. Se tu gli togli quello al Movimento 5 Stelle, gli togli la linfa vitale. Scusami un attimo, Paolo, che dobbiamo concludere. Se i deputati votassero una fiducia, Casaleggio secondo te lascerebbe? Ma guarda, io Casaleggio non so cosa lo farà, cosa lui farà, ma se dovessero votare la fiducia, io non mi faccio mai. Già adesso voglio, insomma, voglio prendermi un po' di tranquillità, perché non posso sì, fare. Però il giorno che ci fosse una fiducia sì, del Movimento 5 Stelle al governo Bersani, io sparisco dalla circolazione. E invece Crimi, ti è parso inadeguato questo capogruppo? Ma no, questo non si può dire, sono le prime esperienze, ci potranno essere degli errori, ci sono stati, ma ragazzi, è gente che in Parlamento non c'è mai stato, probabilmente. Ho capito. Io avrei fatto chissà quali errori. Ma quello sicuro. Grazie professore, a presto, ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. La zanzara inizia così. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Ma bambo mi ammazza e vattene. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist. La zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, schiacciala, schiacciala, ti ho beccato. Si devono smettere con queste balle su Roma. Continuate a presentare Roma come se fosse un disastro. Roma è una delle città che va meglio rispetto alla crisi economica. E dovete smettere di insultare la nostra città, va bene? Guardi, Emanuele, posso dire la verità, però. Ma basta, insomma. Ma no, ma c'è mi un pare, limite, però, no? Veramente. E fate pure i grafici in questa maniera. Ma siamo, nei grafici, siamo stanti detto quello che sta dicendo lei. Sciocchezze su Roma. Va bene? Allora, io penso che lei non ha. E non me ne vado, giusto per rispetto ai telespettatori. Ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato. Come ti stendi nel letto? Rilevo che in tre servizi avete fatto non siete stati capaci di trovare una sola cosa positiva della nostra amministrazione. Avete fatto soltanto l'aspetto negativo, critiche più o meno casuali e più o meno dissennate. Non avete trovato un punto solo, allora, tra gli impegni che voi avete fatto. Ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato. Ma veniamo a qualche moralista che ci critica per la questione di Onida, dello scherzo che abbiamo fatto all'ex presidente della Corte Costituzionale. È tornato su di noi il signor Baime. Signor Baime, senti, la stampa occupata a fare scherzi telefonici. Senti. La stampa sta è un divaga, ha dei momenti di difficoltà. Avete letto, insomma, avete seguito. Ormai si occupano di fare scherzi telefonici, si presentano sotto false identità per provocare del gossip, del pettegolezzo, delle goliardate delle quali non dovremmo occuparci. Ancora vai me. Nella stessa categoria esiste una troupe che adesso si trova in Siria e in difficoltà. Quelli fanno il loro mestiere. Questi altri fanno la festa delle matricole abusivamente, perché secondo me non hanno neanche fatto la licenza liceale. Comunque. Non abbiamo fatto neppure la licenza liceale, secondo il professor Baime. Il professor Baime, che da due giorni. Sì, ma non mi interessa adesso di specificare. Ci sono delle ossessioni che non vanno via, evidentemente, al professor Baime. Il professor Baime. Rifiuta, fammi dire, perché si è rifiutato di venire a confrontarsi con noi in onda sabato sera, ad esempio. Sì, ma non ti preoccupare. Adesso secondo me non hanno neanche fatto la licenza liceale. Comunque, hai capito? Adesso lo conciamo noi per le feste al professor Baime. Io ho fatto il liceo classico, che non c'è che ma non c'è bisogno di specificare. Giovanotto Crozza Napolitano, senti Onida, eh. A Zanzara l'imprendibile, certo. Non diciamo la sovrintendenza, mi raccomando. Presidente, non è il momento di giocare a basket. Hai ragione, giochiamo a baseball? No. Frisbee? No. Guardi che il caso Onida è su tutti i giornali. Ha detto che i saggi sono inutili. È vero, Onida. Sì, ma gli hanno fatto uno scherzo, poverino. C'era uno che faceva l'imitazione della Margherita Hack. Lui quelle cose lì non le pensa. Lui è uno dei migliori saggi che abbiamo. Lo hanno sorpreso, aveva la guardia bassa. Ma figurati se lui, ma ora ti dimostro che gli faccio uno scherzo io, vedrai che... Ma sì, tranquillo. Cosa fanno? Pronto? Onida? Salve, sono il professor Antonino Zighetti. Ecco, è vero che si dice che vi aggirate come gli asteroidi che vagano nel vuoto assoluto, è vero? Dice che è vero. Onida! E sono Giorgione, il tuo presidente, Onida! Ma ci sei cascato di nuovo, eh? Svegliati, che cazzo di saggio sei? Mamma mia! E mentre Napolitano dice che nel 76 i partiti ebbero il coraggio per fare le larghe intese, beh, il mitico Squinzi, presidente di Confindustria, dice che abbiamo fatto uno scherzo di cattivo gusto. Dovresti essere molto preoccupato per questo, caro Parenzo, Squinzi. No, ha ragione Squinzi, credo che è stata un'idea di pessimo gusto, è stata solo di Crociani, Squinzi. Io non voglio tirarmi indietro, ma l'avevo dissuaso, gli avevo detto non è il caso, Giorgio non è d'accordo. Ma guarda che non è successo nulla di tutto questo, eri felicissimo, godevi come un pazzo e ridevi, ma non dire stronzate, su. Ma ridevo come un pazzo, ma ovviamente sto scherzando, certo che ridevo come un pazzo. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Lei risponde adesso quando Margherita Hack o altri la chiamano al cellulare o pensa che sia... Ma normalmente io rispondo ai numeri che conosco, quindi non spero di non avere... È sempre possibile cadere vittima di questo tipo di scherzi, però... Si tutela. Accetto il consiglio, cercherò di evitare gli infortuni di questo genere. Non solo di cattivo gusto, ma di molto cattivo gusto. Caro Parenzo, metti lì la testa sulla ghigliottina. Metti la testa sulla ghigliottina. No, io voglio dire che è mosso cazzi, amico mio. Una botta col bacio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, una botta col bacio. C'è Bossi che ha detto, sentiamo, dal palco di Pontida, chi dice che va tutto bene è un leccaculo. Chi ha detto che tutto va bene è un leccaculo, però io dico che tutto è ancora rimediabile e intendiamo rimediarci. E siamo qui, Mario da Genova, 800 24 00 24. Mario, buonasera signor. Vada Cruciani. La chiamavo perché non concordo sul suo modo di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri. Lei si è permesso di dire, mi sembra, Pannella... Io non l'ho proprio toccato il tema del sovraffollamento delle carceri, non ha capito lei. Io ho detto che Pannella non fa un comizio, non ci interessava, non me ne fregava niente del comizio e dell'appello, in particolare dell'appello ai carcerati. E lo ribadisco, non me ne frega nulla, ma non dei carcerati, dell'appello ai carcerati. È un po' diverso, ha capito o no? Cosa pensa lei del sovraffollamento delle carceri? Ma non me ne frega niente di parlarne, ha capito o no? Ma bisogna costruire più carceri. Bisogna costruire più carceri. Lei è un cretinetti che quando parla con Garbi si caga addosso insieme al suo scudiero. Dica, continui. Sto facendo le mie osservazioni. E infatti le sta facendo. È un argomento che riguarda l'intera collettività, per cui lei dovrebbe parlarne, avrebbe questo dovere. E lei mi dirà, non mi frega un caso, decido io gli argomenti dei quali parlare. Esatto, bravo. Ma invece deve seguire le osservazioni che le fanno gli ascoltatori. E va bene, lei le fa. Lei vive di questo, sì. Vive di ascoltatori, per cui deve seguire le indicazioni che le danno, perché lei migliorerà il suo ascolto, perché non è dicendo cazzo. Grazie professor Mario. Illustrissimo. Grazie illustrissimo professor Mario. Dire sull'argomento? Come, scusi? Altro da dire sull'argomento, sul fatto che lei non frega un cazzo. Scusi, ma lei vuole condurre questa trasmissione, Mario? Ma senz'altro lo farei meglio di lei. Ah, comunque sicuro, guardi, è già... Purtroppo io non, sì, non faccio il suo mestiere, ma lo farei sicuro meglio. Ah, sicuro, certo, non c'è dubbio. Guardi. Cosa fa lei, professore? Maestro, che fa? Io sono un imprenditore. È un imprenditore, ma in quale ramo? Tutti sono imprenditori. Ramo volendo. Aeronautico. Lamo, ah, beh, c'è cioè, ramo, certo. Ramo, non lamo. Ramo aeronautico, sì, ramo sì. aeronautico. No, mi permettevo dunque, di dire. Dunque, lei si intende di radio? Di come si conducono i programmi, no, eccetera. Mi intendo di ascoltatori, perché io sono ascoltatore. Ah, lei si intende di se stesso, ha detto. Si intende di se stesso. Capisce se stesso, forse. Forse capisce se stesso, forse. Forse lei non ha ben presente come funziona. Chi sta dalla parte della radio e parla, sì, se non ascolta quello che gli dicono gli ascoltatori. Io sto ascoltando, è due minuti che l'ascolto. È due minuti che ascolto le sue boiate, sfiguri un po'. Cioè, boiate. Ma scusi un attimo, cosa vorrebbe dire boiate? Qual è la boiata? Tutto quello che ha detto è una boiata, sì, inaudita. Una cosa, però va bene, gliela lascio dire, ne diciamo tante, boiata, anche, ne diciamo tante anche noi. La sfido a dire qual è una boiata. Ma tutto quello che ha detto è tutto delle boiate pazzesche. Tutto, generico, tutto. Specifichi. Senta, che bisogna sentire quello che dicono gli ascoltatori. Io la lascio insultare quanto vuole. Guardi, non mi scivola addosso. Sto invitando a specificare. Vuole fare una lettera di protesta? La sto invitando a specificare. Non ha argomenti? Sì, non ho argomenti. Tutto quello che ha detto, se vuole, le ho fatto una domanda. Tutto specifici. Quello che ha detto gli ascoltatori, il ruolo degli ascoltatori, il ruolo del conduttore, tutto quello che ha detto, Mario. Perciò lei è contrario a alla mia affermazione che la sua affermazione, ma chi è lei? La sua affermazione, ma io la sto ascoltando, infatti la sto ascoltando. E allora perché ha detto che è una boiata? Perché è una lei dice che dovrei essere condizionato da questo, invece non sono condizionato. Non ho detto condizionato, dovrebbe ascoltare i suggerimenti. Sì, io li ascolto, infatti li sto ascoltando. Lei non sa la differenza tra essere condizionato, senta, ad ascoltare un suggerimento. Mario, se lei pensa di dialetticamente, senta, imbecille. Se lei pensa, sì, se lei pensa di dialetticamente di sfidarmi, ma dove massacra? Ma dove? Sì. Dove? Ma le ho dove? Spiegato, mi dica la differenza. Ma dove? Ma lei c'è mai stato in un carcere? C'è mai stato in un carcere italiano? Lei c'è, ma non mi rompa le scatole con queste cose. C'è mai stato in un carcere? Lei mi sta cercando, sì, ma guardi, di superare la mia voce. Sto tremando, guardi, sono tiri fuori l'omino dal cassetto. Sono faccia parlare lo scudiero. Sono imbarazzatissimo, guardi. Sono imbarazzatissimo, signor imprenditore di Genova. Sì, sono imbarazzato. Guardi, sono talmente imbarazzato che guardi, vorrei abbandonare la trasmissione. Scudiero Parenzo, vuoi intervenire su questo signore di Genova? Ripeto la domanda. Ma le domande le faccio io, ha capito che le domande le faccio io, sì o no? Lei è chiaro questo? La differenza tra condizionamento e ascoltare il parere degli ascoltatori. Lo so, è lei che non lo sa. E allora perché ha parlato di condizionamento? Non si preoccupi. Non conosce il termine. Non si preoccupi, la mia interpretazione, perché sono libero di interpretare. Chi fa radio è ignorante. Non si preoccupi, si limiti a spegnere arrogante, la radio. Si limiti a spegnere, caro Mario. Si caga addosso quando parla con Sgarbi. Ma questo è il suo problema. Ciao, Sgarbi. Lei non ha capito. Simpatico. Lei non capisce, due, purtroppo. Culo, altro che sì, lei non capisce, questo è il punto, capito? Sì, lei sono è, io che non capisco. È guardi, tecnicamente ignorante. È tecnicamente la ignorante. Ma lei è tecnicamente ignorante. Lei capisce la parola tecnicamente ignorante? Lo capisce? Ma no, anzi, le dico, non la capisco, me la spiego. Sì, no, ma lei è tecnicamente ignorante. Non conosce, non conosce, ha capito? Non conosce. Ma non si preoccupi, ho qui davanti qua. Senta, non faccia il simpatico. Ogni volta arriva a dire non si preoccupi, sì, perché non sa cosa dire. Va bene, lei ragazzino. Ma dove? Quando parli delle carceri, ma dove? Ma dove? Devi pulirti la bocca. Ma lei c'è mai stato? Ma lei c'è mai stato? Ma dove? Forse è stato in galera lei. Forse in galera è stato. In galera forse. Sì, esatto. Ci bravo. Sono stato. No, allora, benissimo. E infatti non c'è niente di male. E lei non ha rispetto per chi c'è stato? No, io ho rispetto. Era un altro discorso. Lei non l'ha capito. E allora cosa vuol dire lei c'è stato? Che domanda era? No, perché le conosce evidentemente. Le conosco, esatto. Benissimo. Per questo che sto parlando. Come lei le conosce? Come le conosce? Lei c'è mai stato? Come le conosce? Come le, ci sono stato, come le conosce? Come le conosce? 15 giorni. Come le conosce? Lei c'è stato? Ma come le conosce? Le conosco perché le sto facendo e sto dicendo che ho un problema. Benissimo. Della collettività. Lei c'è stato? La non mia domanda? Si preoccupi, lei non si preoccupi. Lei c'è stato? Sì, certo. Continua, che ci sono quando stato. Lei è imbarazzato dice non si preoccupi. Io non sono imbarazzato, sono abbastanza... Le sto chiedendo, no, ma lei no... c'è stato? Sì, certo che ci sono stato. Benissimo, a far cosa? Insieme a dei deputati per lavorare, caro Mario. Prego? Insieme a dei deputati per lavorare. Cosa ha capito? Visto? Non si preoccupi, ho visto quello come che ho visto. Come non si continua a dire non si preoccupi quando non sa cosa rispondere? Ah, resti le là, resti là, resti là. Fenomeno, visto? Borsa, fenomeno, aspetti, resti là, Borsa. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Lo vogliamo sentire questo deputato del 5 Stelle che si chiama Currò, fiducia tecnica al Partito Democratico. Sentiamo Currò, va. Currò che Becchi ha detto che si autoelimina da solo, un traditore, come altro devo chiamarlo. Una compagine di governo sulla quale possa confluire che cosa? Il voto di fiducia, ma che è un voto tecnico. Noi votiamo questi punti perché sono i nostri. Chi vuole poi aderire a questi punti lo farà per il bene del collettivo e del paese, perché noi siamo certi che il Movimento 5 Stelle fa una proposta bella per il paese. Tanto più che quella zanza nella stanza più non ronza ed il sonno poi mi assale. Lei lo sa ma s'aspetta. Siamo qui 800 24 00 24. Mario, allora vada avanti, su qua. Vada, insulti ancora. Vada, posso andare? Andavo avanti in questo senso. Sì, vada pure. Aspettavo la sua disquisizione in ordine alla differenza tra... No, guardi, questa discussione non mi interessa. Siccome decido io. Ha detto che lei non si lascia condizionare. Sì, ma lasci... No, ma non mi lascio condizionare. Non ha capito. Adesso io spiego. Adesso lo spiego io. Non mi lascio condizionare. Per spiegare bisogna puntualizzare. Faccia quello che vuole. Ho parlato di ascoltare. Dica quello e io l'ascolto, non si preoccupi. Lei ha detto non mi lascio condizionare, siccome sì. Sono due cose fondamentalmente vabbè diverse, sono diverse, ho capito benissimo, ha ragione lei, va bene, così risolviamo la questione. Ha ragione lei, ha capito benissimo, ha ragione lei. No, ma non si preoccupi, ha ragione lei, ha perfettamente ragione lei. Allora, io non mi sono arrabbiato con i carcerati, mi sono arrabbiato col fatto che Pannella voleva fare un appello, questo a lei, lei che è un genio, lei che è un professore, lei che è un maestro, lei che è stato nelle carceri, le è chiaro oppure no? Le è chiaro o no? Non le è chiaro, benissimo. Ferma tutto, no, mi è chiaro. Io oh, basta, punto. Sincero. L'argomento è escluso, a me non mi interessa la questione delle carceri. Ma vede, il problema è proprio che a lei non interessa. Ma non mi interessa discuterne adesso, non mi interessa discuterne adesso. Non è la prima volta che dice non mi interessa il problema delle carceri. No, non mi interessa invece, discuterne adesso. Non mi interessa. Ma sentito da ogni cittadino. Benissimo, è un problema sentito da ogni cittadino. A parte che uno è padrone di non sentire un argomento o un tema, non è lei che detta, che cosa devo sentire e cosa non devo sentire, lei capito? Non ha capito il ruolo no, della radio. È lei che non ha capito nulla, questo è il punto fondamentale. Mi dica cosa non ho capito. Non ha capito niente. Lei non può dire ogni cittadino dovrebbe sentire il tema delle carceri, perché io sento quello che mi pare, ha capito o no? Ha capito o no? Ma è un grosso problema per lei. No, è un problema suo che vuole imporre a me quello che devo sentire. È un problema suo, caro imprenditore. È un grosso problema se lei non sente il problema del fatto che sarà un mio problema, a parte che non è vero che non penso che sia un problema. Ma non è vero, lo dice lei. Allora questo perché qua lo dice? Vabbè, ma lei non ha capito il principio. Lei continua a dire non mi interessa il problema. Non mi interessa parlarne qui, ha capito o no la differenza? L'ha capito dove o no? Dove ne parla, scusi Crociani. Ma io ne parlo con gli amici, ne parlo dove diavolo mi pare. Non me lo impone lei, ha capito o no? Non mi interessa parlarne Non me lo impone lei. In quali ambienti ne parla? Ma lei che cosa gliene frega dove gliene parla? È andato nelle carceri a far che cosa se poi non ne parla? Senta, lei ha un problema, lei ha un problema molto serio. È andato nelle carceri a fare cosa se poi non ne parla? Vabbè, ma lei è andato a fare? Lei è malato, su. Per curiosità, lei aveva la curiosità di andare nelle carceri, l'ha invitato qualche deputato tipo Sgarbi e come Lecchino si è messo dietro Lecchino. Perché se uno va nelle carceri e verifica i problemi problemi poi ne parla, questa è una deduzione logica. Ma com'è che questo cosa vuol dire adesso? Non mi interessa? Dica non mi interessa. Uno ne parla, vuole imporre a me che il fatto che devo parlare delle carceri. Ma senta Radio Radicale, non si preoccupi, parlano delle carceri in 3 secondi. Ma mi spieghi cosa vuol dire senta Radio Radicale? Sì, se vuole che ogni giorno si parli un luogo, ogni un posto. Scusi, ma la vedo molto imbarazzato. Cosa vuol dire ogni giorno? Se vuole, lei quando ne ha parlato? Se vuole sentire qualcuno, ma io posso anche non parlarne, non ho capito ancora. Mario, ma cosa è andato a fare allora nelle carceri? Ma che ne frega lei? Ma guardi che cosa frega a me? Quell'altro lo sento da al di là. Sì. È una persona totalmente inutile. Lei conduce ma lei è un poveraccio. Lei è un poveraccio. Ma guardi, io lei è un povero disgraziato. Ma lei è un povero disgraziato, soprattutto. Sì, un poveraccio è anche un povero disgraziato. Passi all'offesa. Prima dice non mi interessa. poi passa l'offesa. Vabbè, lei è un povero disgraziato. Su. Sì, ma lei continua a usare dei termini di cui non conosce neanche il significato. Sì, tecnicamente ignorante, cosa vuol dire secondo lei? Lei è un povero disgraziato. Su. Lei è un povero disgraziato. Sì, povero disgraziato, cosa vuol dire? Lei è un povero disgraziato. Povero in che senso? Anzi, ma ha rotto le scatole, scusi. Mi ha fatto due parole così. Ma che argomenti? Metta giù per arrogante, metta giù perché non ha argomenti. Bravo, bravo, lei è forte. Lei è forte. Lei è forte. Lei è forte. Lei è forte, lei è forte, si sente figo, si sente figo, si sente figo, si sente figo. Poveraccio, poveraccio, poveraccio, poveraccio. Ma al giornalista a dare una carezza, dare una carezza, a dare una carezza alle persone, a quelli che ce l'hanno portata. Sì, a dare una carezza alle persone, imbecille, a dare una carezza alle persone. Imbecille. Cosa se ne fanno? Imbecille. La carezza alle persone non parla del problema. Vada, è veramente vada, penoso. Vada in pace, vada in pace. Non moleste moschito. Luigi dalla provincia di Napoli, non buonasera. Non moleste moschito. Luigi, pronto? Buonasera. Sì. Salve, niente, dopo l'intervento dell'amico, cioè, c'è da pensare che a Genova sia l'aria che faccia male, insomma. Ma sì, ma carità, cioè, ognuno dice quello che vuole. È libero di pensarla come vuole. Pensarla, poi, certo. Pensarla mi sembra una cosa un po' eccessiva in questo caso, pensarla. Vabbè, almeno la dice. Niente, io volevo, visto il trascorso periodo pasquale, cioè io... Come ho visto Bessani, cioè l'ho visto a mo' di agnello sacrificale praticamente, è stato abbastanza divertente ed è ancora attualmente divertente la cosa, perché non si capisce sto signore cosa vuole fare, si è congelato, si è scongelato, fa il capo del governo, non fa il capo del governo, si tira dietro, si butta avanti, c'è Renzi che lo incalza. Io penso proprio che l'abbiano sacrificato stessi suoi praticamente per toglierselo dalle scatole in via definitiva, perché alla fine di tutta questa diatriba che si è innescata, cioè l'unico risultato sarà quello che Bersani è definitivamente finito. Va bene Luigi, grazie. E siamo qui con Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Buonasera Borghezio. Buonasera e buona Padania a tutti. Ah, dai, con sta Padania. Ecco, tornata il termine sacro di Padania. Ma è dove è tornato? Tornato? Anche Maroni ha di nuovo citato la Padania. Ma dove l'ha citata? A Pontida. Vabbè, ma è normale, quello l'ha sempre citata la Padania. No, c'era stato un periodo post congresso nel quale sembrava che così fosse. Ma c'erano quelli con la foto con Maroni col Pinocchio là, col... Vabbè, qualche spiritosino c'è sempre. Poi, ma che bisogna fare con quelli, con la quei contestatori? La critica è tale della democrazia, qualche sberlefuccio è nella tradizione. Noi facciamo parte della commedia dell'arte. Oh, no? Ecco, è una finalmente tradizione sana che deve continuare. Dunque non bisogna cacciarli quelli là. Ma no, ma mica li caccia. Maroni è un padre buono. Qualcuno poi ha detto ogni che tanto si incazza anche lui come tutti, però alla fin fine non credo che... Cioè è più buono di Bossi? È più buono di Bossi? No, viene da quella scuola. Noi, ripeto, facciamo anche parte... siamo politici genuini, facciamo parte della grande tradizione della commedia dell'arte. E quindi ognuno recita giustamente la sua parte, chi in maniera più spiritosa, chi magari in maniera qualche volta un po' meno. Ecco. Però l'umanità che... Sì. Voi siete venuti a Pontida altre volte, l'avete conosciuto. Parenzo è venuto per lavorare, io no. Un sacco di volte sono venuto a Pontida. Ecco, io ho avuto la soddisfazione di rivedere tante facce giuste, non quelle facce di cazzo che qualche presidente della Camera riceve, eccetera. Con le i rom, i sinti, dice lei. Esatto, no, gente che lavora. Ma perché perché facce da cazzo? Ma oggi la giornata internazionale sono gente che lavora. Ma oggi la giornata com'è, Parenzo? La giornata? No, appunto, è la giornata internazionale di solidarietà al popolo rom sinti, istituita dall'ONU nel 1979. Del patrimonio della loro cultura. Beh, sicuramente diciamo una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta, indubbiamente molti rom ce l'hanno. Cioè lei dice che è la giornata dei ladri oggi. Ma come? Però, diciamo, non tutti i rom sono ladri, ma diciamo che molti ladri sono rom. Ah, addirittura. Ma come no? Ma non si può. Cioè, per cui invece diciamo, è una bella percentuale. Invece di fare la giornata... Una bella tecnologia affinata, eccetera. Ma a parte i capoltrui. lavoro poco, però il problema è questo, il problema non sono loro, il problema sono i Boldrini, le Boldrini, questi cattocomunisti del Piagnisteo, questi professionisti dell'assistenza. Vabbè, è andata. Non serve un cazzo. Vabbè, ho capito, adesso lei già sulla Boldrini ancora si è espresso in maniera dura, però è andata l'altra volta. No, in maniera obiettiva, obiettiva, perché parliamoci chiaro, questi qui sono gente che per conto dell'ONU ha vissuto in stipendi meravigliosi. Ricordate le statistiche sulla FAO, no? 80% del bilancio per i loro stipendi megagalattici per gli alberghi a 5 perché stelle, non poteva, 20% per i poveri perché del non mondo. Poteva ricevere i rom e i sinti, scusi? No, ma io dico che forse c'erano delle cose più urgenti, ecco, nel momento in cui c'è tutta l'Italia che vorrebbe lavorare, vorrebbe produrre, che non lo può fare, nel momento in cui persino i sindacati dicono che prima bisogna far lavorare nei campi i nostri disoccupati e poi ma i rom spesso sono italiani i rom neanche si propongono di lavorare perché è come l'acqua con l'olio, loro col lavoro, no? in generale che lavora, ma sì. come termine già. Ma che fanno di solito allora? Tutto questo buonismo, lo sappiamo, basta, non è necessario interpellare Borghezio, basta interpellare un quidam de popolo per la strada, dice lei cosa pensa dei rom. E manco ti risponde, ti guarda come dire ma che domanda mi fa? Penso quello che pensano tutti, cioè? Che mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via, quindi è un riflesso pavloviano. Perché l'ONU da un'esperienza secolare. Perché l'ONU fa questa giornata mondiale? È razzista questa perché l'ONU rappresenta diciamo a livello mondiale il vertice del buonismo che non serve un tubo. Poi quando ci sono i veri massacri, loro mandano i caschi blu che non concludono però niente. Però scusi Borghezio, ma si potrebbe battezzare la giornata dei ladri? Ma io dico la giornata della demagogia e del facciatismo, esatto. Sì. Poi con contorno di festival dei ladri, questo senz'altro. Speriamo che non portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili. Arredi che hanno rubato qualcosa. Sconsiglierei una visitina al Quirinale, perché lì poi c'è tutto il mobilio che lo Stato italiano di merda ha fregato agli stati preunitari. Cioè, scusi, secondo lei dovrebbero fare un controllo adesso, secondo lei? Io un esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e quello che è rimasto dopo lo farei con il prudenzialmente, come l'esperienza insegna. Ecco. Speriamo che... poi con Napoli meglio che se andate alla Boldrini, che mi sembra abbastanza sveglia, non per nulla sempre cuccato di stipendi di favola, e che stia stata attenta che non le abbiano portato via anche lei Monili l'argenteria, perché invece al Quirinale, data la vita che ha vissuto, penso che sia ben attrezzata. E tra parentesi sono curioso di sapere, perché giustamente dei politici vuol sapere quali erano i loro beni prima e quali erano i beni dopo, e sarebbe interessante anche di questi alti funzionari, di questi enti inutili, questi che vivono di assistenzialismo, sapere qual era la loro denuncia dei redditi, i loro beni prima di iniziare la loro carriera di amici dei poveri e poi quella dopo. Vabbè, che siete stessi, la Boldrini si è arricchita. La Boldrini si è arricchita dietro i poveri. Ma è questo, tutti, mica solo lei, tutti questi che fanno di professione gli amici dei poveri, non li vedi mai girare, diciamo così. La cassa integrazione per i professionisti dell'assistenza non c'è mai. Senta, ma lei che pensa? Il piccolo imprenditore che oggi si suicida. Mandi un saluto al popolo rom. Mandi un saluto al popolo rom. Questo ce l'hanno sempre. L'Italia è una repubblica fondata sui fancazzisti, perché questi il lavoro non lo perdono mai. Mandi un saluto al popolo rom. Almeno un oggi. Saluto al popolo rom, glielo mando con una certa tranquillità, tenendo e con una certa preoccupazione, perché non sono in casa e quindi spero in bene. Cioè, in che senso, scusi? Come se vengono a rubare casa sua? Spera che non rubino casa, dice. In casa mia non c'è niente da rubare, sia chiaro, sono vecchi libri. Ma chi saluto è da giornata? Tutti i beni sono a casa di mia sorella, io non c'ho un cazzo. Ma è razzismo, scusa. I beni di famiglia io non li ho voluti, vecchi fogli. Cioè, questo è l'appello che lei fa, attenzione. Eccetera. Se è proprio necessario rivolgetevi al resto della famiglia, io in casa non c'ho un cazzo, sia chiaro. Tengo delle porte blindate solo perché sono affezionato alle vecchie scartoffie, ma non sia chiaro, non si ricava niente. Senta, ma nella vicenda ma non è un saluto, scusa. Fatevi ricevere dai boiardi di Stato, ecco, lì, ce n'è, lì da prendere ce n'è, nelle case degli arricchiti della politica, della vecchia politica. Ma non rubano, ma perché? Dei vecchi partiti, andate lì, se, nel caso poi gli indirizzi si trovano. Ecco, a in casa, che senso si trovano gli indirizzi? Gli indirizzi si trovano a casa di questi sindaci amorevoli verso i Rom, eccetera. Andate lì, ce n'è da prendere. Noi vecchi razzisti siamo tutti poveri, quindi andate lì, nelle case dei bonisti, lì c'è da prendere, no? Nelle case di quelli che fanno la lezione agli altri, poi in casa loro gli extracomunitari ci sono, sì, coi guanti bianchi a fare da camerieri. Sì. Scusi un attimo, Borghezio, ma cosa pazzesca. Borghezio, scusi un attimo, ma i poliziotti... Potrei anche fare nome e cognomi, non li faccio perché e chi sono? Sono una persona educata, i figli di puttana non li voglio smascherare. Scusi, però Borghezio, sì, però io voglio capire una cosa, lei è sempre dalla parte dei poliziotti, no? Sì, certo, e sono dalla parte di quel capogruppo della Lega che a Bologna ha dato in escandescente quando ha sentito la proposta veramente fuori dalla grazia di Dio di nominare cittadina onoraria la mamma di quel ragazzo. Di Aldrovandi, perché che ha fatto? Fermo restando che il dolore di quella signora ovviamente qualunque persona civile rispetta, e quindi lo rispetto, ma il fatto che il comune di Bologna, rispetto a un fatto che è avvenuto a Ferrara, con cui Bologna non c'entra un cazzo, il comune di Bologna perda il tempo per fare un'iniziativa di sapore puramente demagogico. Ma perché demagogico? Una cittadinanza onoraria, Borghezio, la cittadinanza onoraria a Bologna ha una signora che non c'entra niente con Bologna, per un fatto che non c'entra niente con Bologna, è una cosa che risponde solo a demagogia. Ma lei è dalla parte dei poliziotti che non devono andare in galera? No, sono dalla parte del buonsenso della Lega. Che vabbè, che c'entra il buonsenso della Lega? La Lega non è andata a fare la manifestazione contro la signora. Però Aldrovandi se l'è un po' cercata in quella colluttazione con i poliziotti, secondo lei? Ma direi che il comportamento migliore l'hanno tenuto i poliziotti, che hanno chiesto scusa e hanno detto noi non abbiamo provocato nessuna manifestazione, c'entriamo no niente. La manifestazione, sto dicendo l'episodio. Cioè, ma l'episodio si commenta da solo, cioè? Non è stato certamente un bel episodio, però direi che la strumentalizzazione di quell'episodio fa il pari. Cioè è sbagliata la galera per i poliziotti? Con della manifestazione. La galera, io infatti non li conosco. Ci sono stati motivi per una condanna, eccetera. Però voglio dire, marchiare a fuoco per sempre quei poliziotti mi sembra una cosa, tenendo conto che mi paiono chiarissimi gli eventi, mi sembra. Se devono pagare è giusto che paghino. Scusi un attimo, Borghezio, lei al Quirinale, chi vorrebbe al Quirinale? Ma al Quirinale direi, vedrei bene ovviamente una persona fuori dai un nome, faccia il suo nome. Che non esce dalla vecchia, dai vecchi partiti ladri mafiosi di Roma. Questo è la premessa. Ho capito, ma che vuol dire? La proposta di Sgarbi di Muti mi sembra... Vabbè, è caduta però, perché lui ha rifiutato. Molto non c'è più. Una proposta di questo genere, una figura fuori dagli schemi, possibilmente non una faccia di merda della vecchia politica. Ecco, vabbè, ho capito quello però, qual è la faccia di merda... Ma diciamo, la Bonino sarebbe benissimo. Ma io... Diciamo, non la definirei una faccia di merda, sia ben chiaro. Sia chiaro. Però, sia chiaro. Sinceramente... È un altro personaggio, diciamo, molto meno compromesso, però che appartiene pur sempre a questa vecchia nomenclatura. Lema? Da Lema? Io non parliamone neanche. Direi escluderei per definizione questi vecchi personaggi e proporrei una figura eminente che naturalmente garantisca col suo equilibrio la sua... Borghezio, no? Col suo equilibrio Borghezio. Ma io penso che una figura, ce ne sono stati i presidenti, pensiamo la vecchia Italia, per esempio del primo dopoguerra, che ebbe la saggezza, quei deputati, quei senatori, sentiamo, di eleggere Presidente della Repubblica un monarchico. Come un monarchico? Un monarchico. Ma scusi, come si fa? De Nicola, persona onesta. Ma scusi, perché un monarchico? L'ho trovato, perché la maggioranza degli italiani è monarchia, poi naturalmente con la... Ma anche adesso ci vorrebbe un monarchico? Hanno scelto la Repubblica. E comunque diciamo l'Italia era spaccata, erano, ma anche adesso ci vorrebbe fuori dalla vecchia, dalla politica Io direi che bisognerebbe tornare a quella saggezza di un paese che trovava il momento di unità. Ragazzi, la saluto, la devo salutare, a presto. Ci stiamo, arrivederci, bene. Buona Padania a tutti, ciao. La Zanzara. Davide Parenzo collegato dalla sala Eurostar, salutiamo il nostro amico Moretti, sala Eurostar della stazione di Firenze. Notizie. Sì, venite pure qui se volete menarvi, tanto non vi fanno entrare. È soltanto per chi ha la tessera. E vabbè, magari devo levare a qualcuno che ha la tessera, che ne sai? Cioè... No, qui c'è gente per bene, faccia pulita, schiena diritta. È meglio lavorare, no? A proposito di Emma Bonino, presidente, me lo porta un goccio di prosecco molto freddo, per cortesia. Dunque, volevo dirti questo: la giornata dei Rom oggi. Sì. Io vorrei parlare di un po' di prosecco freschissimo. Grazie. No, aspetta, prima fammi sentire Alessandra Mussolini sulla parrucca. Va, Emma Bonino, presidente, un pannella con la parrucca, sentiamo. Se votiamo la Bonino, ci ritroviamo pannella con la parrucca bionda al Quirinale, che è una cosa drammatica, che gli esce fuori il codino bianco. Vito da Bari, buonasera Vito, che volevi dire, Parenzo? Scusa, che volevi dire? Ma volevo semplicemente ricordare che una giornata come questa va dedicata agli amici Rom e Sinti, e un appello ai Rom, telefonate alla Zanzara 800 24 00 24 e raccontateci le vostre storie, le vostre tradizioni. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? No. Voglio dedicare tutta questa puntata a questo popolo straordinario che ha portato la musica. Sì, sicuro, guarda, sicuro. Questa cultura itinerante in un'epoca in cui non si può celebrare la stanzialità, ma si deve celebrare proprio il migrare, conoscere, Basta, fatelo tacere, dai. Tu lo sai che quando un partito non sa che cosa fare, indice una manifestazione, il Partito Democratico ha indetto una manifestazione contro la povertà. Forse è un po' inutile manifestare, volevo delle politiche più che questo, sì, mi permetto. Contro la povertà è come manifestare contro la pioggia o manifestare contro la vecchiaia. O inventatevi qualcosa voi, è la stessa cosa, che differenza c'è? Uno può manifestare contro la vecchiaia, certo, però alla fine si diventa vecchi, non cambia anche nulla. Contro la prostata, dici, io manifesto contro la prostata, sì, però se ce l'hai la devi togliere. Vabbè, la prostata non è ineluttabile, non è che ce l'hanno tutti, cioè la vecchiaia. Beh, però per chi ce l'ha dice, faccio una manifestazione contro la prostata, è possibile, appunto, lo stesso contro la povertà, non è che servono manifestazioni, servono politiche attive, come per la prostata, non è che dice manifesto contro la prostata, se ti è venuta ti devi operare, amico mio, come per la povertà. Ingroia invece ha accettato di fare il gabelliere, in sostanza, cioè il capo della società di riscossione in Sicilia, e da rivoluzione può non andare ad Aosta. Esatto, e da rivoluzione civile è passato a riscossione civile. Vito da Bari, Vito, dica. Sì, buonasera. Intanto inviterei la spazzatura precedente. Non sento nulla. Antonio da Caserta. Antonio? Oh, Antonio! Sta battendo i chiodi, pronto, che sta facendo? Pronto. Dica, Antonio, su, dai. Antonio, Alessandro, però, che Antonio? Perché non rispondevo. Alessandro, su, Alessandro. Alessandro da Caserta, comunque siete geniali. Siete voi la regia e viva i giochi. Ma Alessandro da dove? Alessandro da dove, scusi? Da Catanzaro. Da Catanzaro, benissimo. Non ce l'ho proprio scritto nemmeno lontanamente, proprio. Comunque, dica. Dicevo, viva i giochi, caspita, che stanno cominciando a tarparvi le ali. Invece, viva i giochi, continuate così. Allora? Ma che avete fatto? Cioè, sono stato via 3-4 giorni, sull'Ansa vado a leggere Pannella, Unida, ma siete dei miti, ma dei grandi. Vabbè, facciamo quello Pannella che può. Pannella al mito di Parenzo, suo ex datore di lavoro l'avete mandato ai matti praticamente. Ma chi abbiamo è andato lui da solo ai matti, le posso assicurare che abbiamo fatto poco. Ma Parenzo, ma su Wikipedia c'è scritto che lei ha lavorato in farmacia, ma è vera questa cosa oppure no? No, non ho lavorato in farmacia, non sono laureato in farmacia. No, laureato. È una stronzata. Su, Alessandro, poi di che dobbiamo parlare, dai? Ma non mica io, ma c'è da chiamare Eliseo? di Roma, perché c'è da aggiornare la classifica delle succhione. Dice? Perché la Boldrini, sì, la Boldrini è da mettere in classifica. No, non faccia, tre, non faccia così, non dica questa cosa sul presidente della Camera. Come che no, c'è? Ma poi questo contatto con le culture straniere, cioè lì il semaforo rosso in pieno, no? Ma perché, scusi? Perché? Beh, caspita, chissà quanti giochi, poi lei se ne intende. Ma che dice? Ma di che parla? Ma di che sta parlando? Se lei è un poveretto. Senta, comunque io ho chiamato più di un mese fa dicendo che il Parlamento è sovrano, che il Parlamento può legiferare. Sì. E Parenzo mi dava ragione, lei mica troppo. Ma e non io mi ricordo. Ho citato Nida, Zagrebeschi, eccetera. Non mi ricordo, può essere che lei... Vedi, però alla fine può arriviamo essere, tutti a una conclusione. Io sempre... È difficile che abbia detto che il Parlamento non è sovrano e non può legiferare. Certo che il Parlamento è sovrano e può legiferare, mi sembra una cosa normale. Può legiferare senza il governo, Ma assolutamente... Guarda, io non voto 5 Stelle, certo è una questione meramente costituzionale. Ma certo che può legiferare senza il governo. Poi ci sono delle procedure che riguardano le commissioni. E di solito in Italia la prassi vuole che il Parlamento diventi operativo quando c'è un governo. La prassi, la certo, prassi. Però adesso lei capisce che questo qua, ma lei lo sa benissimo anche lei, non c'è bisogno che lo dica io, che questo allora è poltronismo, che non vogliono fare niente, cioè questo è poltronismo, cioè ascoltiamo Milan, ascoltiamo Barisoni, le imprese sono in ginocchio, qui non vogliono fare niente, è una vergogna, qualcosa lo potrebbero fare anche per le famiglie. No, io non so se possono fare qualcosa di provvedimenti economici, stanno trattando, come lei sa, sul debito eccetera, cioè sui soldi che lo Stato deve dare alle imprese, sul resto sicuramente se volessero potrebbero fare qualcosa, non c'è dubbio. La ringrazio, Alfonso da Pavia, buonasera. Alfonso, le telefono in merito a quella conversazione che ha avuto con quell'imprenditore. Sì, presunto imprenditore. Presunto imprenditore. L'ho seguita molto in difficoltà, anzi, si barricava dietro offese che non avevano nulla a che fare con l'argomento. No, guardi, le offese le ha fatte prima lui. Assolutamente. Va bene, ha ragione lei, le ho fatte io. Dunque, togliamo subito, sgombriamo dal campo questa cosa. Era molto in imbarazzo perché l'argomento che trattava era un argomento che avrebbe dovuto vederla in prima persona battagliare. Invece lei si è proprio barricato. Barricato, guardi. Non saper cosa dire. Ma su cose io non riuscivo a capire. Lui mi voleva per forza imporre un argomento e diceva perché lei non si occupa di questo argomento? Ma io posso scegliere se occuparmene o no? Sarò padrone o no? Se lei va a visitare le carceri, evidentemente... Ma che gliene frega a lei? Ma perché io devo parlare per forza di questo argomento? Ma scusi, Alfonso, ma perché io... Ma perché devo parlare per forza di questo argomento? Ma per lei? Ma non gli altri che sono dei poveretti. Poveretto è lei che conduce in malo modo questa trasmissione. Va bene, bravo, bravo. Non quelli che li telefonano. Va bene, si sfoghi un po', lei ha bisogno di sfogarsi un po'. Ha bisogno di sfogarsi, grazie. Evidentemente stasera. No, più che altro lei ha bisogno di sfogarsi per problemi suoi esistenziali. No, guardi. Perché evidentemente non essendo nessuno, offende a destra e a sinistra le persone che le telefonano e che le danno anche soddisfazione di telefonarle. Bravo. Non è di certo un modo educato di rappresentarsi. Mai detto di essere educato. Conduttore. Mai detto di essere educato, guardi. Buonasera. È lei che si presenta come educato invece insulta, è molto diverso. E chiudo anche. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Oh, siamo qui con una persona che è stata segretario del Partito Radicale, caro Parenzo, segretario del Partito Radicale. Adesso sono tanti segretari del Partito Radicale. Che segretario? No, che c'entra, non quelli recenti, quelli quando i radicali erano una cosa seria, non adesso, su, dai. Cioè, una persona che adesso fa l'imprenditore vinicolo, lo scrittore Olivier Dupuy, no. Ma che c'entra il povero Dupuy? Che c'entra? Non capisci niente, non c'entra niente. Ma ti chiedo, non lo so, Giovanni Negri, buonasera. Sì, buonasera, siete tutti e due, grazie la Volpe, siete sempre lì, Allora, sì, siamo sempre noi. Caro Giovanni, devi sapere Giovanni che Giovanni... Siete riusciti di nuovo, siccome cercate sempre ogni sera un povero Pinocchio da dare in pasto al vostro pubblico assetato di sangue radiofonico, siete riusciti pure a fare la circonvenzione di Burghiba col povero Pannella, siete riusciti a metterlo in mezzo con noi una tattica. Non abbiamo fatto nulla. Lucidissimo, adesso non direi di no. Però lucidissimo era. Allora, dovete sapere che Giovanni Negri ha fatto di tutto nella vita. Io ho fatto il 76esimo vino del mondo celebrato in questi giorni. Bravo. A Vinitere, altro, fa di tutto. Poi marginalmente hai da fatto bambino, di tutto. Fatto sì, ho fatto. Beh, è più importante fare il vino o essere stato segretario del Partito Radicale? Ma non lo so, vediamo. Sì, insomma, comunque sono importanti tutte e due. Comunque va bene. Sì. Ho fatto soprattutto Emma for President. Ahimè, feci la campagna per fare Bonino presidente. Perché ahimè? Perché ahimè? No, perché va bene, perché adesso è diventata la minestra riscaldata, perché allora andava bene, perché era ciclica, perché la gente credeva agli Stati Uniti d'Europa, credeva che Bonino e Pannella fossero antipartitocrazia, quindi era una cosa intelligente, e quindi era altamente popolare. Adesso è una minestra riscaldata, è una cosa tristissima, e serve solo a nutrirvi di questi cibi che ogni sera dispensate per radio, per cui avete offerto questo spettacolaccio, il poveretto, avete circuito Pannella. Ma quale circuito? Ma quando mai? Scusa Giovanni, ma perché lo paragoni? Perché lo paragoni? Anziché lanciare la doverosa campagna per la liberazione dell'ostaggio Bordin, il vostro collega radiofonico che ogni domenica pomeriggio è ostaggio di Burghiva Pannella e voi lo dovreste liberare, invece voi vi siete accaniti contro il povero Burghiva. Ma non si vuol fare liberare Bordin, questo è il punto. Vabbè, senti, ma perché lo chiami Burghiva? Mi spieghi un attimo? No, Bourguiba fu un grande capo politico, fece l'indipendenza della Tunisia, fu laico contro il fondamentalismo islamico, però ad un certo punto negli ultimi anni, diciamo così, che aveva perso un po' i colpi ed effettivamente Marco gli ha persi, però la Tunisia... Cioè era impazzito, guarda, Bourguiba era impazzito, Giovanni. No, diciamo era invecchiato e ad un certo punto andò ad abitare in una specie di villa al mare dove in modo lungimirante vedeva le cose, faceva la sua fondazione e punto e basta. Ma no, era mezzo matto alla fine era mezzo matto Bourguiba. Sì, vabbè, voglio dire, tutti abbiamo una condanna all'Alzheimer prima o poi, ragazzi. Per cui Pannella all'Alzheimer. Voi l'avete anzitempo, voi avete... Vabbè, noi già ce l'abbiamo. Spesso radiofonicamente si decrittano i segni di qualche Alzheimer imperante. È vero, questo è vero, questo è vero, non c'è dubbio. Quindi dovreste. Però Pannella è da ricovero? No, è Pannella adesso da ricovero. Diciamo che, voglio dire, è quelli che una volta... Cioè, voglio dire, Pannella e Bonino, che io chiamo affettuosamente Bourguiba e nonna Emma. Ma perché... Ma perché li chiamo Bourguiba, non è, ma perché se voi fate un attimo i conti e non fate questa stampa, il problema della stampa italiana che è veramente molto stupida, luogo comune, quindi ha il complesso di colpa verso la nostra storia radicale perché per tanti anni ci censurò, fu persecutoria, eccetera, eccetera. Allora di fronte a Pannella e Bonino vedono Buddha, la Madonna Pellegrina, e si dimenticano di un piccolo particolare, cioè che Pannella e Bonino sono i proprietari unici, anche finanziari del loro partito, da 45 anni, cioè altro che casta, siamo di fronte a un mandarinato cinese, siamo oltre la casa. E chi Mark Jong-il, come si può chiamare? No, più del doppio di quello che Mussolini controllò il fiducia del proprio partito per 20 anni. Loro da più di 45 anni, persino se pigliano lo 0,371 % di voti, che è il prefisso dell'Odi, persino in questo caso non si apre alcun dibattito, perché controllano tutto, quindi altro che casta e anticasta, eccetera, eccetera. Siamo di fronte a un mandarinato cinese assolutamente... Perché nessuno si ribella? Perché tutti hanno il loro tornaconto? Perché voglio dire, perché è anche un partito che poi, diciamolo chiaro, vive da lungo tempo di finanziamento pubblico dei partiti, anche la l'ottima Radio Radicale, di cui voi vi rifiutate di liberare il loro direttore ostaggio di Pannella Bourguiba, l'ottima Radio Radicale è anche, vive anche di questi contributi, quindi non c'è niente di offensivo in tutto questo, però bisogna dire pubblico. Che tutta questa mistica dell'antipartitocrazia è una cosa che ridicola, è lontana in cielo e terra. Signori, gli uomini della giunta argentina, i quali sono una banda di fascisti, hanno invaso il nostro territorio sovrano, cosa che non può essere tollerata. Volete che esprima la mia posizione sui negoziati? Io non intendo trattare con dei criminali o dei banditi. Le Falkland appartengono alla Gran Bretagna e le rivoglio indietro. Beh, oggi lutto al braccio, caro Parenzo, per quello che mi riguarda. Lutto al braccio per la morte di Margaret Thatcher, e devo dire che dopo poche ore della morte della Thatcher, Parenzo, certo. Thatcher era morta da qualche ora, senti che cosa ha detto Romano Prodi, signor Romano Prodi, Romano Prodi, amici miei. Allora, è stata insieme a Reagan la responsabile della crisi globale che stiamo attraversando adesso. Dico solo questo, dico solo questo, non aggiungo altro. No, ma non aggiungo altro. Beh, almeno non si è unito, come dire, al coro stucchevole anche di no, ma non è sinistra. Lascia perdere adesso, uno lo dice prima, lo dice dopo, ma di che stiamo parlando? Vabbè, adesso che c'è, tiri fuori politicamente corretto. Vabbè, tu sei amico di Prodi, vabbè, tu sei amico di Prodi, abbiamo capito. Io sono molto amico di Romano Prodi, appunto, perché voglio dire di più. Devi ricordare, non so se è ricambiato, sì, più che altro, vabbè, allora? Punto. Però va detto che la Thatcher è la figlia di un droghiere e di una sarta. Ma che c'entra, scusa? E diventa primo ministro nel 1979. E allora? Vuol dire che in Inghilterra l'ascensore sociale, a differenza dell'Italia, funziona. Ma che c'entra? Pure allora, Andreotti era figlio di gente più o meno umile. Allora, in un'altra Italia. Allora vuol dire che oggi ricordare la Thatcher vuol dire ricordare che in quel paese la figlia di un droghiere e di una sarta diventa donna primo ministro. Questa è la bellezza, diciamo, vorrei ricordarla così. Ecco, tu hai sviato dall'argomento Romano Prodi, che ha detto oggi una stupidaggine, per non dire una stronzata, e vabbè, tu stai svicolando da questa cosa qui. Siamo con Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, che ha definito Pannella Bourguiba. Per chi non lo sapesse, Bourguiba è stato, come dire, uno dei padri fondatori della Tunisia, capo di stato per un sacco di anni. A un certo punto poi fu preso però e fatto ricoverare, diciamo così, Giovanni, giusto? No, fu messo in una villa al mare perché, insomma, di fronte al padre della patria era diventato imbarazzante, dei suoi discorsi lievemente poco comprensibili, per cui per rispetto e per dignità accadde questo. Ma tu lo capisci? Lo capisci adesso quando parla Pannella? No, io no, non lo capisco, non sono assolutamente in grado di decrittare queste cose fumose, queste le subordinate, la quarta frase, la quinta frase. Insomma, penso che ma c'è un Alzheimer latente? E degli altri che sono rimasti là, Emma e gli altri dovrebbero, insomma, fare qualche cosa, ragionare con lui, perché non ha senso vedere metterlo in una casa di riposo, no, questo no, però sicuramente non essere vittime di voi due, cioè voi ripeto, avete inventato questa radio trash che gronda sangue, spazzatura, urla, ululati, belluini, siete bravissimi, però ecco, proprio lasciarlo andare in pasto a voi è una cattiveria, è un atto non responsabile per un gruppo dirigente. Il problema è che lì non c'è un gruppo dirigente, c'è un gruppo digerente da molti anni che digerisce tutto, e quindi digerisce anche la zanzara, che è francamente poco digeribile l'episodio dell'altra sera. Quindi ripeto, voi fate i bicchieri mezzi vuoti, per cui fate la circonvenzione di Bourguiba anziché fare i mezzi pieni e degli slanci di ottimismo e volontà, liberando Bordin da questo assurdo. Ma perché nonna Emma? Parenzo è un prodiano, un montiano, lo ricordo. Non è andando in autostrada, diceva che voleva il governo tecnico, bello, bello il governo tecnico, bello l'euro, bella questa Unione Europea. Infatti mi alzo in piedi anch'io per la Thatcher, perché il suo grande merito innanzitutto fu quello di aver tenuto fuori l'Inghilterra dall'euro, e oggi grazie a Dio chi sta fuori dall'euro sta bene, mentre chi sta con l'euro sta come stiamo. Questa è opinione mia. Noi saremmo fottuti, dice Parenzo. Vabbè, ma non è, ma perché non è, ma perché non è? Perché quando un partito si illude di uscire da un vicolo cieco in cui si è messo, candidando, appena si libera un predellino, una sedia, una poltrona all'orizzonte, che si tratti del mercato ortofrutticolo di Foggia, del Quirinale, di Palazzo Chigi, del Consiglio Comunale di Bra, dell'incarico all'ONU per l'Italia, loro dicono: e adesso è il momento di Bonino, siamo alla 72esima candidatura di Bonino a qualcosa. Cioè, basta, come se poi onestamente sistemando i nobilissimi glutei di nonna Emma su una sedia risolvessi il problema della crisi di un partito che via via è sceso fino allo 0,371%. Ma cosa bisogna aspettarsi, secondo te, dal partito? Cioè, quando è che finirà? il partito. No, io non lo so, io spero per loro che Bourguiba e non Maemma, che sono i candidati ideali, soprattutto non Maemma, sono delle badesse, delle quote rosa, quelle che sì, di fronte al comitato dei saggi di Napolitano o allo sterminio degli Hutu dei Tutsu, loro contano solo se gli uomini e le donne sterminate sono state rispettate le quote, questo è il punto. Allora, Emma quindi è per le badesse e le quote rosa, ma al di là di questo, io credo, mutuando il loro slogan, se non ora quando, credo che Marco e Emma dovrebbero finalmente dare lo spazio, non a me, che sono andare già in pensione, vecchio, dai, io, andare in ma a due ventenni, a due trentenni, a due quarantenni, donne e uomini, ce ne sono tanti, credo, nella famiglia radicale, che rilanciano questo benedetto Mastito. Però scusa Giovanni, mollare, per cui mollare, ma dunque non più Emma for President fu un errore clamoroso, o no? No, Emma for President allora fu giustissimo, perché servì a fare l'8% che poi Pannella distrusse nell'arco di un anno, perché il suo e oggi, è oggi come si potrebbe avere più del 2% è una tragedia, avere più. Vedo che qualcun altro lo emola un po', perché mi pare che ci sia su piazza un leader che ha avuto più voti di quelli che sperava di avere, adesso non sa veramente cosa fare, perché ne ha troppi. Il suo ideale era dire no, col 10-15% se ne sta lì col 25% e mo sono affari suoi. E i due invece, i nostri due, Emma for oggi come si potrebbe dire? Emma for resident, cioè? A casa, for resident, Emma for resident, cioè a casa insieme a Marco e due ventenni. Ma diciamo la verità, loro interessano solamente, ma nel senso per il partito, i quattrini pubblici. No, allora interessa un monumento a loro stessi, che abbiano questo riconoscimento, questo grande, perché è vero che hanno scritto un pezzo di storia italiana, come tante minoranze di questo paese, come insieme a loro l'hanno scritto i Mellini, i Teodori, le Aglietta, di cui non c'è più alcun ricordo, anche perché diciamo loro due hanno occupato un pochino tutto. Ecco Marco, tu che dici? Marco, hai sentito le critiche di Giovanni Negri? Marco? Io dico a Giovanni che abbiamo fatto insieme le battaglie con i radicali transnazionali per la libertà dei Falun Gong. Abbiamo mandato Maurizio Turco nella piazza di Hanoi quando c'era la crisi e abbiamo detto libertà subito. Dico a Giovanni che me ne fotto di quello che dice lui, visto che l'ho messo io a capo di radicali italiani. L'ho mandato in Europa, l'ho mandato, adesso produce il vino che è... Ma in Europa dove? Dove l'hai mandato in Europa, Marco? Ma che l'ho dici? L'ho candidato in Europa. Vabbè, quello che c'entra. E adesso lui produce il vino, mentre noi siamo qui a dire libertà per i curdi, libertà per i Falun Gong, Tibet libero, e lui produce il vino e guadagna milioni di euro, mentre noi diciamo libertà ora. Ma ieri a Radio Radicale c'è stata la super cazzola di Marco Pannella. Io per la prima volta da tanto tempo ho sentito il programma domenicale in cui c'era ospite Pannella, intervistato da Walter Vecellio. Ma sentite, Parenzo, devi stare molto attento, perché è una cosa eccezionale, la mitica super cazzola di Pannella, senti. Ma è possibile che se nel momento in cui quello là entra in quell'altra cosa, ho spermatozoo lì, là già ci siamo, quando poi avevo imparato che non era ammessa che cosa? Qualsiasi sacramento, a cominciare quindi dal battesimo, a tutto quel che non avesse icto oculi sembianze umane. Beh, capito, sì. No? Allora questo spiegava perché non c'era il battesimo, non c'era, e poi c'era appunto il limbo, il non limbo e tutte quante. E allora mi veniva da dire, mamma mia, questo è più materialista, questo riflesso, ma com'è possibile? Ci dicono l'animazione piglia quando scende, l'animazione ce l'avevano pure non solo i cattolici e gli altri, ma ce l'avevano i contemporanei di Aristotele e di quell'altri che stavano a discutere quando succedeva per la femmina dopo, per il maschio prima, ecco tutta questa roba qua, sì. Che mi pare appunto di dopo, un'attualità straordinaria, bella, dubbio. Si deve divenire poveri. Ah beh. Come dire, di questa inessenzialità, l'inessenzialità di pensiero legata molto a congiunture antropologiche. E le famose congiunture antropologiche. Vi assicuro che non ho tagliato nulla. Non ho tagliato niente! Non ho tagliato niente! Non lo so, non lo so, parlava delle religioni, di mille cose, una cosa pazzesca. Grazie a Giovanni Negri, ciao Giovanni. Ordine libero, ciao. Viva, ciao. Viva ciao. Anche i romanzi che scrive Giovanni, che scrive dei romanzi straordinari, come si chiama? Soprattutto quelli, soprattutto in libreria, tutti. Come si chiama? Kosulic. Il sangue di Montalcino, commissario Kosulic, tutti, da Einaudi, super bestseller, ormai in spagnolo, in tedesco, hai visto? Così domani a Radio Radicale diranno Negri è insultato, offeso, per poter fare una lurida pubblicità. Marchetta, una lurida marchetta libera. Una marchetta, schifosa. Sì, ma io, nonostante questo, sono generoso e dico lo stesso, Bordin libero, lancio il movimento. Ma quello non è più manco Bordin. Direttore, non è manco più direttore. Vabbè, fa lo stesso, però è il suo inno è perché la domenica mi lasci sempre solo, cioè bisogna liberarlo da questa prigionia, la sindrome di Stoccolma. Fate qualcosa dai microfoni di Radio Sole 24, è urgente. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Giulio da Bologna, buonasera Giulio. Ciao ragazzi. Mala. Quanto è stato un coglione Borghezio stasera con la sua invettiva senza senso contro gli zingari. Ma anche incredibile. Vabbè, pensa così, dice, è matto. Giornata degli zingari, giornata dei ladri, ma gli zingari sono, lo dice Milcio Ran, il popolo forse più stimabile della storia. Hanno mantenuto la loro cultura per migliaia di anni senza una guerra, senza fare un morto, senza erigere un monumento, avere una bandiera, cioè, quindi una cultura fantastica. E che vogliamo fare se la pensa così, signor Borghezio? Che vogliamo fare? Niente, però una figura grottesca, mi piaceva sottolinearlo, mi piaceva chiamarvi e sottolinearlo. E anche quell'altro coglione di Alemanno, che a Roma c'è un'amministrazione di merda. Io mi sono trasferito da Roma per studiare a Bologna, non arriva un autobus in orario, la città è veramente una merda in tutti i sensi. Vabbè, questo è un suo giudizio, gli elettori decideranno a maggio se ha governato bene o male. Sì, questo è vero. Per cui, per carità, lei può dire dal suo giudizio su come ha vissuto Roma. Per me è sbagliata nella reazione di Alemanno, è sbagliato, cioè uno può reagire tranquillamente dicendo guarda, in quel servizio ci sono dei dati sbagliati perché noi abbiamo fatto questo e quest'altro, certo. Non il grande complotto contro Alemanno. D'altra parte i servizi su Roma, in generale i servizi sulle amministrazioni, meno male che sono cattivi, che sono sferzanti, uno si deve abituare a questo tipo di servizi. Se non fossero così, allora fateveli voi i servizi, no? Fate un bel servizio, no, scusami, dall'ufficio stampa di Alemanno, che tra l'altro sono tutti ben pagati, e via, no? Qual è il problema? Ma tu ti ricordi cosa facevano, cosa dicevano, come attaccavano Rutelli e Veltroni in passato? Questo succede sempre, succede sempre. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Notizie dal busto di Almirante? E guarda, hanno segnalato la presenza del busto nella sede di Radio Radicale. Ah, non faccio il cretino. Beh, cioè, mica può essere solo fregato Pannella. No, è stato sostituito dai microfoni, cioè Radio Radicale hanno tolto i microfoni e li hanno messi dentro il busto di Almirante. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Beh, io provo ad aiutarla, signora Almirante, però se lei ogni volta mi risponde con questo carico di violenza non so che dirle. Non mi secchi, non stia a seccarmi. Ma non mi secchi lei, la sto aiutando a ritrovare il busto. È proprio rincoglionito forte lei, eh? Vabbè, io mi fermo, di fronte a questo mi fermo. Allora, Massimo Gramellini sulla vicenda che riguarda, durante il programma di Fazio, una vicenda che riguarda Onida. Agguato ancora mediatico, ma per estorcere verità. Bravo, Gramellini. A me piacciono gli agguati mediatici che estorcono notizie con l'inganno. Però non vorrei che il dibattito sulle forme facesse passare in secondo piano la sostanza, e cioè che i potenti ormai raccontano ai giornalisti, cioè ai cittadini, solo delle balle, e che per estirpare loro qualche verità bisogna fingere di essere qualcun altro. Onida ha detto: ho commesso un'ingenuità. Abbiamo così appreso dalla viva voce di un saggio che dire la verità significa essere ingenui. Scusi la domanda ingenua, professore, ma se i saggi non servono a niente, perché lei ha accettato di farne parte? Può rispondermi o la faccio chiamare da Margherita H? E giù applausi, però io devo dire che non sono d'accordo su questo, perché il potere... No? No, non sono assolutamente d'accordo. No, come no? No, Non sono d'accordo. Perché? No, non sono d'accordo perché il potere, non dico che è una stupidaggine, dico semplicemente che non sono d'accordo. Perché il potere può anche vivere grazie al silenzio, cioè ha diritto al silenzio. Cioè non è che tutto deve essere rivelato, no? Dopodiché si può discutere sulle frasi di Onida, inutile perché ha accettato, perché non ha accettato, ma tutto questo è avvenuto dopo lo scherzo, e non dico scherzo a caso, dico scherzo perché qui non si tratta di una cosa estorta, è evidentemente una cosa estorta, ma trattasi di scherzo radiofonico, una cosa molto particolare, che non è come un'intercettazione, non è come mettere la cimice mentre uno passa, è uno scherzo radiofonico. Durante le presidenziali americane del 2008, Sarah Palin fu vittima di uno scherzo da una radio canadese, un finto presidente francese Sarkozy la chiamò, e ci fu una conversazione, lei espresse dei giudizi anche su McCain, all'epoca McCain era il candidato repubblicano, la cosa successivamente ebbe delle ripercussioni anche nei rapporti tra McCain e la Palin. Tu sai quale fu la reazione della Palin? Sai quale fu la reazione della Palin? Non so se abbiamo lo scherzo della Palin con Sarkozy, sentiamo. Governor Palin. Hello. Just hold on for President Sarkozy, one moment. Oh, Nadia, yes, I always do that. Yes, hello, Governor Palin. I'll just have people hand it. Yes. Yes, hello, Mrs. Governor. Hello, this is Sarah, how are you? Fine, and you? This is Nicolas Sarkozy speaking, how are you? Oh, so good, it's so good to hear you. Thank you for calling us. Oh, it's a pleasure. Thank you, sir. We have such great respect for you, John McCain and I. We love you. And thank you for 2 minutes to talk to me. Beh, insomma, fu una conversazione poi che durò 3, 4, 5 minuti, non ricordo, in cui la Palin passò come quella che era stata fregata da questo imitatore, disse delle cose sconvenienti, si dimostrò troppo mielosa nei confronti di Sarkozy. Ripeto, sapete quale fu la reazione della signora Palin? Stiamo parlando di Sarah Palin, candidata alla vicepresidenza, e non facciamo i nomi. Allora, la reazione fu molto semplice. Disse, se la vi. Ma quale scusa? Scusa di che? Se la vi. Disse, se la vi. Qui qualcuno parla di complotto politico-mediatico. Il professor Onida, che io rispetto, e per carità, lo capisco anche quando è incazzato. Cioè, capisco che sia incazzato nero, lo capisco assolutamente. Però il complotto mediatico l'abbiamo già spiegato in lungo e in largo. Qui si preparano le cose di fretta. Ci abbiamo pensato alle 5 di pomeriggio. Non è né il signor Squinzi, né il signor Berlusconi, né il signor Sallusti, né la signora Santanchè, né non so chi altro ad averci dato l'idea. Cioè, non abbiamo voluto indebolire nessuno, perché a noi non ce ne frega niente di indebolire il Quirinale, di indebolire i saggi. Dimmi. Possiamo svelare una cosa: chi è il grande burattinaio della Zanzara? Chi è il grande burattinaio? Ma chi è il busto di Almirante? Ancora. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Riccardo da Roma, buonasera Riccardo. Ah, Riccardo Poggio. Buonasera. Sì, dica. Buonasera. Allora, guarda, ho chiamato solo perché ho sentito delle stronzate allucinanti stasera. Cioè, non potevo esimermi da dire la mia. Cioè, non mi potevo esimere. Ah, e lei è Riccardo, mitico Riccardo. Che è successo, Riccardo? Sì, sono io. Adesso prego a Parenzo di non parlarmi sopra come al solito, sennò se cominciamo a attaccare... Che è successo, allora, Riccardo? Senti, cretinetti, qui le regole me le detti tu, cretinetti. No, per carità, le detti te, che sei l'Emilio Fede del PD, le detti te. Vabbè, allora... Niente, volevo dire come si fa, volevo rispondere a quel coglione che ha telefonato di Roma, che dice che si è spostato a Bologna, che dice che lui a Bologna funziona tutto, a Roma non funzionano i pullman, gli zingari sono il popolo eletto, gli zingari hanno fatto la guerra, eccetera. Ma tu, te a Roma, che è pieno di zingari da bruciare. No, come da bruciare. Bruciare. Allora, guarda, io ti dico una cosa. Ecco il pazzo. Mia moglie. Ecco il pazzo. Tua moglie? È rumena. E vabbè, allora che c'entra? Sai cosa fanno in Romania gli zingari? Che fanno? Li bruciano, ma gli tirano le molotov, perché quelli schiappano. E se gli tirano le molotov, la polizia arriva e ecco tirano le molotov anche loro. Ma chi la bruciano? I delinquenti, però. Ecco, i delinquenti. Perseguitano. Ma i delinquenti li bruciano, i delinquenti. No. Allora, in Romania, ecco, in Bulgaria, in tutti i paesi dell'Est, gli zingari non rubano mai. Cioè, sono cose molto rare, perché sono dei pezzi di merda, ma se la popolazione dà loro contro, sì, le forze dell'ordine danno man forte. Vabbè, io tutto ho capito allora che questi schiappano e dove vanno? Vanno, vabbè, allora vanno, ha superato il limite, arrestatelo. Vanno in tutti questi posti dove ci sono i buonisti di merda comunisti come la Boldrini, come qualsiasi che gli voleva dare le case agli zingari, Veltroni, quello che gli ha dato le case sulla Gardia, Rutelli, tutte queste merde, la sua casa gli comunisti dare. E cazzo comunisti, perché tanto loro ci hanno 20.000, 30.000, 40.000 euro al mese netti, che nessuno glieli può levare perché ce li hanno per legge, ce li hanno in virtù di una legge dello Stato, non se li devono sudare come noi, no? E allora che cazzo gli frega? Sono tutti froci con quello dell'altro, no? Ma tu dammi 30.000 euro al mese netti per legge anche a me, che non me li puoi togliere, ti faccio vedere con gli zingari, ah zingari, prendete i soldi, li invito pure a mangiare a casa mia, però prima mi devi dare 30 netti, 30 fischi netti al mese come loro, altrimenti non vale, no? Beh, adesso è un ragionamento un po' troppo, come dire. Che c'è, Parenzo, rispondi. Gli devono dare a Riccardo 30 pedate nel sedere al giorno, non al mese, al giorno, per quello che ha detto. Si deve vergognare. 30 pedate nel culo gli devono dare. Amico di Prodi? Come? Tu chi sei, l'amico di Prodi? Ecco, commentiamo la seconda stronzata che hai detto. Che ha detto? Che ha detto? Scusa, non l'hai detta tu, l'ha detta quel coglione di Prodi, il tuo amico, però tu gli hai dato ragione. Commentiamo la stronzata che la Thatcher e Reagan hanno creato la crisi del 2007, 2008, 2013 e quello che è. Vogliamo commentare la seconda stronzata? Quella l'ha detta Parenzo, ha dato manforte a ecco Prodi. Stiglitz, ha chiamato Stiglitz in trasmissione, no? Il signor Stiglitz da Roma, Stiglitz Riccardo ha chiamato. Ma che sì, magari, se piacerebbe te. Mamma mia, guarda. Ma 30.000 pedate nel sedere ti devono dare a te al minuto, non al al minuto te le devono dare. Sì, me l'hai poveretto, detto che non c'hai un cazzo da fare che telefonare alla trasmissione. Vai a guadagnarti da vivere invece, vai a guadagnarti da vivere. Sì, vabbè, tu continua a fare l'Emilio Fede del PD. Continua a fare l'Emilio Fede del PD, vai. Vai a guadagnarti da vivere onestamente. E ogni cazzata che dici, quelli perdono sempre più voti, vai, meno male. Ma ce ne fossero, vai a guadagnarti da vivere. Candidi, oppure fai da portavoce. Cioè, guarda, se vuoi, guarda, fate le primarie, io te vengo a votare, te giuro. Perché guarda, già stanno con la picco, se arrivi te botto sicuro. Dammi le coordinate di dove sei, che ti faccio raggiungere, che ti faccio raggiungere con l'ambulanza. Patetico. Ma perché patetico? Che c'ha, Riccardo? Poveretto, esprime le sue poveretto. Idee, certo, un po' forti ma sui Rom. Ha detto delle cose agghiaccianti sui Rom. Ma scusa, ma perché non li inviti a casa tua? Facciamo un discorso corretto, no? Tu fai parte vergognoso, di quei comunisti, schifoso, con i sepolchi imbiancati, cioè fai parte di quella risma lì, invitali a casa, no? Quella puntata che te compravi i formaggi da 40 euro, 50 euro, cioè tu spendi 50 euro di formaggi a sera, invita pure i zingari, no? Poveretti, quelli fanno l'elemosina, se morono le fame, sanno che avete ancora, beh, portali a casa tua a mangiare, so, il camembert, i formaggi stagionati, il patanigra, non lo so che cazzo mangi, cioè sicuramente passeggerai, adesso ordinavi il prosecchino, ti sentivo che ordinavi il prosecchino fresco, invita qualche zingarello, no? Queste ste cose o le rubano o non le hanno, allora fai il vero solidale, no? Sii coerente, no? Sii coerente, non fare sempre il radical chic di merda ipocrita, no? Sì, coerente. Parenzo, rispondi, ma che fai? Con loro, no? Rispondi. No, però. Perché se rispondo, cioè, se rispondo lo mando a fare in culo, quindi non c'è niente da dire, poveretto. Vai a cagare. Siete delle merde! Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Buonasera, cercavo il signor Pierluigi Bersani. Il deputato? Sì. Ma ha sbagliato il numero. Oh, mi scusi, ma sì, pensavo fosse vicino Piacenza, eccetera. Ma non c'è suo marito, No. Ah, mi scusi, ho sbagliato. No, non siamo neanche parenti. Ah, ok, grazie, sì, mi scusi. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Non mi moleste molto. Gianni, provincia di Milano, buonasera. Gianni. Riccardo, che da solo gioca a biliardo e di grande compagnia, è il più simpatico che ci sia. Ah, Riccardo, quello di prima. È una favola. Vabbè, Riccardo. Urinoterapia, interessa? Urinoterapia, sì, ne abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi. Come no? Questo è il cucù, perché è cucù, sì, di Parenzo. Sì, in che senso, scusi, non ho capito. Cosa vuol dire? Lui ignora. Non ho capito nulla, scusi, mi può ripetere un po'? Ha il cucù di Parenzo. Ma chi ha il cucù di Parenzo? Cucù, perché urinoterapia, pazzi, ignora, è ignorante, no? Ma chi è ignorante? Chi è ignorante? Parenzo. Parenzo è ignorante, ho capito. Certo, grazie, certo, perché? Certo. 5 milioni di giapponesi che sì. seguono la urinoterapia sono degli imbecilli. 5 milioni di giapponesi, 2 milioni in Germania. Sì. Lei è un seguace dell'urinoterapia? Non sono seguace, mi è utilissima. Ma lei quante volte la utilizza? Cioè, quante volte beve il suo piscio? Scusi se sono. Quante volte bevo il innanzitutto c'è tutta una preparazione. Cioè, mi spieghi qual è la preparazione? Se tu vuoi bene a te stesso, sì? la bevi. Sì. Ma lei quante Parenzo volte la beve? Non si ama, ne sono certo. Chi? Ma Parenzo non si ama perché non beve il suo piscio? Beh, questa è una curiosa teoria. È importante questo. Allora, fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Sì. Volete portarmi uno trattato in chemioterapia, 50 anni di ricerca, che è ancora vivo? Forza! Vabbè, ma che c'entra questo, scusi, con l'urino? Che c'entra con l'urinoterapia, scusi? Teniamo presente questo: urinoterapia, digiuno inteso come frutta e verdura, sì. Ha tante chance di ottime guarigioni abbinato a ascorbato di potassio, sì. all'erborescente. Vabbè, però restiamo all'urinoterapia. Ancora. Voglio capire, signor Gianni, lei quante volte beve il suo piscio? Tanto per essere chiari, perché al mattino. Tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni, ma la conserva, la fa e la beve o la conserva? Tranquillamente, è buonissima. Provi. Beh, adesso provo. Insomma, mi sembra un po'. Ma, Dio mio, informatevi sull'urinoterapia. Sì, ma io voglio informare. Anche dalla lucidità con cui parla si capisce che è giusto. Beh, senti, amico, senti un po'. Io fumo Toscani. Non rompere i coglioni più di tanto. Quello pure io fumo Toscani. Che c'entra questo, però? Scusa. Sì, ma siccome ho la voce rauca, perché fumo Toscani. No, la lucidità con cui lei condisce le parole con me. Che esiste. No, scusi, signor Gianni, io provo a ricapire una cosa. Anche gargarismi. No, signor Gianni, come la devo chiamare? Giovanni? No, Gianni. Vabbè, caro Gianni. Vabbè, caro Gianni. Tordurina, chiamalo. La mattina lei fa l'urina. No, un attimo, Cruciani, con tutto rispetto. Sì, prego. Lei che? Non lo so, il tizio, il cucù che lei ha vicino, prima si deve informare sulla terapia della urinoterapia, magari una telefonatina alla Brigliadori che gli ha dato. Vabbè, adesso non è che la Brigliadori sia però un modello assoluto di vita, cioè magari. No, attenzione. Non io vorrei capire, Gianni, la mattina lei si alza, fa la pipì e poi la beve, come certo. funziona? Ah, così, quella del mattino, cioè non è quella registrata, certo. Quella. Non è quella già fatta dalla sera prima. No. Però si può mettere in frigo per conservarla? No, perché devi mettersela in frigo, è libera. No, fresca, ma così bella calda, mi perdoni. Ah, bella calda, certo. Viene giù tranquilla e lei se la sorseggia che è una meraviglia. E quanto? Un bicchiere, mezzo bicchiere, quanto? L'inizio no, la fine, cioè la testa e la coda no. Il mezzo, quello, diciamo, quello in mezzo, tranquillamente. Ma quanto? Mezzo bicchiere? Quanto mezzo fa? Bicchiere, mezzo bicchiere, beh, certo. Parenzo, hai capito? Sì, no, ho capito che in questa radio ultimamente chiama solo gente che beve il pisce, è una cosa incredibile. Mi dispiace perché quello lì è nato. Ciccio Formaggio, stai buono, fidati, altrimenti ti mando io l'ambulanza. Gianni, prosegua così. Io bevo il prosecco. Ciccio Formaggio, bevi pure il prosecco. Io bevo prosecco, tu bevi piscio, la gente valuterà, hai capito? Ma io non ho capito, stasera tu, Parenzo, non mi dire che non puoi parlare a voce alta, perché questo qua no, mi farebbe... urlando. Ah no, perché ho avuto l'impressione che tu non puoi... No, posso parlare con la voce che voglio, perché sono qui, unico del Freccia Club di Firenze, vabbè, ringrazio anzi il dottor Moretti. Maurizio da Roma, se ho capito, tu bevi prosecco e lui piscio, la gente valuterà. Io bevo prosecco, lui beve il piscio, la gente valuterà. Maurizio da Roma, buonasera Maurizio. Hai capito? Buonasera, vada. Sì, sì. Abbiamo sentito varie volte qui questa trasmissione, è interessante, però... con un linguaggio triviale non lo trovo neanche adatto anche al una radio che è ispirata da Sole 24 Ore, quindi sì, un giornale che dovrebbe essere serio. Beh, faccia le sue proteste, cosa vuole da me? Anche faccia il linguaggio, cioè, anche argomenti seri. Sì, faccia le sue proteste, scriva. Benissimo, faccia le sue proteste, scriva, faccia, dica, faccia quello che vuole. Maurizio, no, ma che non ho capito che vuole, non ho ancora capito che vuole, perché se lei mi dice il programma va troppo volgare, benissimo, abbiamo capito, questa è la dato, sua critica. Poi Sole 24 Ore, parliamo di un orario dalle 19 alle 20 in cui si mangia, Maurizio, i bambini che ascoltano. Ho capito, i bambini che ascoltano, Parenzo, che ci facciamo con i bambini che ascoltano? No, i bambini va fermata la macchina improvvisamente. Anzi, no, ma frenando. lui dice che è a casa con i bambini. Ah no, vabbè, chi è a casa deve semplicemente prendere il bambino, aprire il freezer, sì, e togliere tutti i surgelati dal freezer, la carne, il pane, che c'è, togliere tutto. Sì, ma prendere. Come? Sì, sì, no, non lo dico, basterebbe no. Magari portarli in un'altra stanza. Comunque, vabbè, dimmi. No, togliere tutto dal congelatore, sì, prendere il bambino, mettere dentro e chiudere, non e aprire solo il giorno dopo. Ha capito qual è il metodo? Il discorso, qual è la motivazione poi di una espressione così triviale, no? Sì, sì. No, ma questo è il metodo. Telefono azzurro. Giacomo da Ferrara. Buonasera a tutti. Vada, veloce che stiamo chiudendo. Velocissimo, volevo intervenire su Borchezio. E premesso che praticamente ho un'intelligenza media, perché non penso di essere una persona sopra le righe, però sì, volevo suggerire a Borchezio di farsi accompagnare. Dove? Perché è da qualcuno che lo possa aiutare in qualche maniera. Ah, un medico, dice lei. Sì. Perché a dir poco defice. Vabbè, è deficiente, è ignorante, quello che vuole. Però dobbiamo chiudere, per cui ci dobbiamo sentire domani 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cornuto. Radio 24. La passione si sente.